non possiamo nascondere le nostre battaglie con la realtà. Finché si tratta di verbalizzare su Dio e sulle sue vie, siamo per lo più d'accordo. Ma quando si tratta di confrontarci con le realtà che ci toccano nel vivo, siamo più propensi ad essere confusi e, spesse volte, a non condividere ciò che Dio ci propone o ci impone secondo i casi. La realtà è sempre iconoclasta, tende a demolire i nostri castelli in aria, pieni di sogni e di ideali. Perché questo fatto non si ripeta del continuo. A nostro danno, è saggio e opportuno accettare che il bene e il male procedano dalla bocca di Dio. Punto e basta. Tra le grandi verità su Dio, egli è amore, giusto, buono, santo, misericordioso, fedele. Il fatto che sia anche e soprattutto sovrano dovrebbe permeare la nostra vita, così come il sangue, che è presente in tutto il nostro corpo. Per avere una vita serena, felice, fruttuosa, abbondante, la nostra quotidianità deve essere vissuta con la costante consapevolezza che ogni cosa si stia svolgendo sotto lo sguardo benevolo della volontà di Dio. Poiché l'argomento di un Dio sovrano potrebbe cadere nella retorica, è saggio considerare come gli israeliti, ai quali furono affidati gli oracoli di Dio, Romani 3, 2, considerassero la sovranità di Dio. Meglio ancora, consideriamo con l'ausilio della Scrittura come Dio si sia proposto quale sovrano di ogni evento e cosa richiedesse a chi poneva fede in Lui. Prendiamo alcuni esempi dalla vita ordinaria degli ebrei, esempi che sono più che mai attuali anche per noi. Deuteronomio 17, 8, 13. Se sorge un caso che è troppo difficile per te da giudicare tra omicidio e omicidio, tra una causa e l'altra, tra un ferimento e l'altro, casi di disputa entro le tue porte, ti leverai e salirai al luogo che l'Eterno, il tuo Dio, ha scelto, e andrai dai sacerdoti levitici e dal giudice in carica a quel tempo e li consulterai. Essi allora pronunceranno la sentenza di giudizio, e tu ti atterrai alla sentenza che essi ti hanno indicato nel luogo che l'Eterno ha scelto, e avrai cura di fare tutto. Ti atterrai alla legge che ti hanno insegnato e al giudizio che ti hanno dichiarato. Non devierai dalla sentenza che ti hanno indicato, né a destra né a sinistra. Ma l'uomo che agirà con presunzione e non darà ascolto al sacerdote che sta là per servire l'Eterno, il tuo Dio, o al giudice, quell'uomo morirà. Così toglierai via il male da Israele, così tutto il popolo verrà a saperlo, ne avrà timore e non agirà più con presunzione. L'Eterno Dio riconosce che la nostra vita non scorra sempre liscia. Vi sono omicidi, cause, offese, dispute, che devono essere risolte. L'Eterno Dio riconosce pure i nostri limiti e le nostre incapacità ad avere sempre un pronto e giusto giudizio. Poiché la vita già di per sé è complessa, anche le controversie non sempre indicano una chiara motivazione utile a decretare che la ragione stia tutta da una parte. Spesso, proprio perché le ragioni e i torti esistono da ambo le parti, comprendere quale sia la parte lesa, o almeno quella avente diritto a risarcimento, non è sempre facile. E è sufficiente ricordare l'episodio in cui Salomone dovette esprimere una sentenza di giudizio fra due prostitute che si contendevano un figlio vivo. E è occorsa tutta la sapienza di Salomone per districare tale matassa. Ma non tutti abbiamo lo stesso discernimento e stessa sapienza. Molto spesso colpa e ragione si fondono, al punto che i ragionamenti vanno in cortocircuito, in tilt. Cosa fare? La soluzione non può essere che una: andare da una persona autorevole esercitante il diritto di dare sentenze. Al tempo in cui l'Eterno diede le leggi religiose, civili e morali, le autorità religiose erano i sacerdoti, mentre le civili erano i giudici. Questi, dopo aver udito il caso, pronunciavano la sentenza di giudizio. Ora, la domanda che ci si pone è: ma le loro sentenze erano sempre giuste? Non potevano a volte avere dei giudizi di parte? La risposta non può essere che affermativa, anche perché molti anni dopo la narrazione riporta figure di giudici e sacerdoti corrotti. E allora? Cosa fare? Non vi dovevano essere dubbi né discussioni, perché l'Eterno aveva ordinato: ti atterrai alla legge che ti hanno insegnato e al giudizio che ti hanno dichiarato. Non solo egli richiedeva ubbidienza, ma aggiunse: ma l'uomo che agirà con presunzione e non darà ascolto al sacerdote, che sta là per servire l'Eterno, il tuo Dio, o al giudice, quell'uomo morirà. Il giudeo, timorato di Dio, doveva accettare per buona e vera qualsiasi sentenza che fosse stata espressa. In caso contrario, vi era la pena di morte. La sentenza metteva in evidenza la gravità della pena. Consideriamo come l'Eterno risolveva il caso di un furto. Esodo 22, 7 a 9. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a Dio per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue, le parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo vicino. Anche in questo caso, se la persona a cui era stato affidato del denaro o altro è stata derubata, doveva restituire il doppio. La faccenda era seria. Se uno aveva ricevuto in custodia un bue, se gli veniva rubato doveva restituire al proprietario due buoi. Però, se egli non era disposto a pagare il doppio, veniva chiamato in causa davanti al sacerdote o giudice, i quali emettevano la sentenza. Se la sentenza era a lui sfavorevole, giusta o no, egli doveva pagare il doppio, doveva pagare, senza discussioni, perché, come sta scritto, colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo vicino. Se ci caliamo nella realtà, colui che riteneva di essere stato giudicato ingiustamente doveva attribuire il tutto non all'uomo ma a Dio. Siamo noi in grado di pensarla così? In caso di furto o di custodia, vi erano altre disposizioni che vale la pena considerare. Esodo 22, 10-11. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda, ci sarà fra le due parti un giuramento davanti all'Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Il padrone della cosa accetterà il giuramento e l'altro non sarà tenuto al risarcimento di danni. Dunque, quando non era possibile verificare la colpa, a volte bastava un giuramento e, come troviamo scritto, il padrone della cosa accetterà il giuramento. Chi di noi non ha un sussulto di fronte a questo ordine? Chi non ha fatto esperienza che il prossimo abbia dichiarato vera una certa cosa, risultante in seguito essere falsa? Poiché prima o poi, ha ragione, diciamo nel nostro smarrimento, ogni uomo è bugiardo, Salmo 116, 11. Poiché da Adamo in poi, la nostra inclinazione a mentire non è diminuita, è evidente che un giuramento possa essere falso. Eppure, fino a prova contraria, siamo chiamati ad accettare per vera una dichiarazione, quando essa viene fatta sotto giuramento. Non si tratta di credere al prossimo, ma di sottomettersi alle disposizioni di Dio. Anche i primi cristiani avevano delle questioni fra di loro. A volte, con uno spiccato romanticismo, vorremmo vivere al tempo dei primi cristiani perché, chissà per quale motivo, pensiamo che vivevano un cristianesimo idilliaco. Niente affatto. Ecco cosa leggiamo nel libro degli Atti, poco tempo dopo l'evento della Pentecoste e la conversione di migliaia di persone. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Nessuno è perfetto, neppure quando vi sono eventi spirituali della portata dei primi apostoli. I primi cristiani di formazione non ebraica l'avevano con gli ebrei convertiti. Cosa più che normale e naturale dal momento che era venuta meno l'assistenza alle persone bisognose. Ma meno male c'erano gli apostoli, i quali, con uno spiccato discernimento spirituale, risolsero la questione. Le cose in quel momento andarono per il meglio, ma, quando l'autorità spirituale degli apostoli non fosse stata presente, come avrebbero fatto i primi cristiani a risolvere i problemi? La risposta non si fa attendere. La Chiesa di Corinto, fondata non molti anni dopo, infatti, oltre ad avere grandi doni, aveva, per il principio dell'equilibrio, anche varie difficoltà. Ecco cosa scrive in proposito l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera. C. È qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo, e se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Il fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. 1 Corinzi 6:1-12. Facciamo una premessa prima di prendere in esame il testo. Abbiamo detto che i conflitti siano un'incapacità a relazionarsi con il prossimo, anche se non sono sempre sbagliati, soprattutto nell'ambito del regno di Dio. Inutile nasconderlo. Un figlio di Dio è un uomo di guerra. Sembra assurdo, incompatibile con il messaggio del Vangelo che annuncia la pace. Ma questo è solo un aspetto della medaglia, aspetto che noi privilegiamo. Le parole di Gesù in merito non dovrebbero mai essere dimenticate da chi ama compiere la volontà di Dio e, notiamo, il Dio della pace. Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto desidero che fosse già acceso. Ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che sia venuto a mettere pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché d'ora in avanti 5 persone in una casa saranno divise, 3 contro 2 e 2 contro 3. Il padre sarà diviso contro il figlio e il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la sua nuora e la nuora contro la sua suocera. Luca 12:49-53. Certo, Gesù ha parlato di divisione e non di guerra, ma ai fini pratici il risultato è sempre lo stesso. Paolo stesso, che ha vissuto tutta una vita predicando l'Evangelo della pace, disse ai Corinzi: le armi della nostra guerra non sono carnali. 2 Corinzi 10:5. Per questo ordinò agli abitanti di Efeso: rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Efesini 6:10-13. Proprio per questo poté dire alla fine della sua vita: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. 2 Timoteo 4:7. Sono verità, queste, non nuove, per chi ha posto fede in Gesù Cristo. Ma, quando si tratta di metterle in pratica, quando si vive in un continuo conflitto con il male e l'ingiustizia, anche il figlio di Dio più saggio è assalito dai più leciti e tormentati dubbi se sta vivendo secondo la volontà di Dio. Eppure, questa situazione conflittuale rientra nella volontà di un Dio sovrano, definito, in ebraico, un uomo di guerra, Esodo 15, 3. E, per questo che leggiamo nel libro dei Proverbi, quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano la legge fanno loro guerra. Proverbi 28, 4. La vera pace, l'unica pace, sarà alla presenza di Dio quando il male sarà tolto per sempre. Fatta questa premessa, la lettera che Paolo ha inviato ai credenti di Corinto, innamorati della propria sapienza e conoscenza, rivela che nella Chiesa fossero in corso dei processi legali. Arrivare a dei processi legali tra figli di Dio non è certamente un segno positivo, ma Paolo non fa del moralismo e passa, da buon giudeo, a dare disposizioni traenti le loro radici nelle leggi ebraiche. Come devono comportarsi coloro che temono Dio quando si trovano in conflitti irrisolvibili? Dare ragione. Lasciare correre. Non mi sembra che questa sia sempre la situazione migliore e più idonea. Questo almeno per due motivi. 1. Bisogna difendersi, non per vincere o distruggere, ma per essere riconosciuti in quanto persona e rispettati dagli altri. 2. Tacendo, soprassedendo, si induce il prossimo a pensare d'aver ragione e lo si stimola a continuare a compiere il male. Ecco perché l'Apostolo Paolo ordina ai credenti la prassi che Dio aveva stabilito nell'Antico Testamento. Se vi sono problematiche apparentemente irrisolvibili, costituire alcune persone che siano in grado di giudicare un alterco legale. Da un lato quest'ordine non sembra poi tanto originale, perché in fondo nella società vi sono delle persone autorizzate a giudicare in casi di denunce. E allora perché i figli di Dio non usano questa prassi? Perché nel mondo viene praticata tale metodo e nella Chiesa? No? Alla luce di quello che abbiamo esaminato, la risposta non può essere che una: mancanza di sottomissione alla sovranità di Dio. In quale senso i figli di Dio mancano di sottomissione in caso di conflitto, alterco, ostilità, contesa? Perché non si crede che la decisione presa da persone estranee in merito ad un conflitto sia la decisione di Dio? Questo è il punto. Come era un atto di fede? Per l'israelita, credere che il sacerdote o il giudice sentenziasse da parte di Dio, anche oggi i cristiani devono credere che, in caso di conflitto, altri credenti siano in grado di pronunciare un giudizio che venga da parte di Dio. Qualcuno mi chiederà: ma tu credi veramente che le conclusioni alle quali arrivano i credenti nel giudicare una causa siano sempre giuste? No. Io non lo credo, ma credo che le conclusioni alle quali arrivano siano nel volere di Dio, per cui mi adeguerò a ciò che verrà sentenziato. Qualcuno potrà arricciare il naso di fronte ad una conclusione del genere, ma credo fermamente che questa sia la prassi perché nella Chiesa si possa vivere serenamente e nello spirito del Vangelo. Come abbiamo detto, è inevitabile che ci siano conflitti nella convivenza, anche se questa è formata da figli di Dio. Anzi, dopo molti anni ho compreso che proprio perché sono figli di Dio, essi hanno maggiori problematiche di altri. Non perché siano peggiori di altri, anche se spesso lo sono. Ma, senza volerlo, volendo essere buoni con qualcuno, usano la forma religiosa per coprire i loro difetti, peccati e limiti. Per questo troviamo delle convivenze che sono continuamente drammatiche, disastrose, conflittuali, inasprite, solo perché non si sono affrontate e risolte certe questioni. E questo è molto deplorevole, proprio perché non si ha il coraggio di chiamare altre persone per dare un giudizio, perché non si crede che una sentenza, buona o cattiva che sia, possa chiudere definitivamente un conflitto, un'amarezza, perché non si crede che Dio sia sovrano anche nelle decisioni drastiche. Si portano e si trascinano avanti per anni conflitti che non onorano per nulla Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il quale ha dato la sua via perché coloro che temono Dio vivano in pace. Proprio per questo l'Apostolo Paolo ordinò ai Corinzi di patire piuttosto dei torti, anziché produrre un effetto nocivo per la causa dell'Evangelo con degli alterchi legali. Non è facile soffrire. Non lo è per nessuno, figuriamoci patire dei torti. Eppure chi ha questo spirito considererà i torti come una benedizione per ottenere dei premi maggiori. I Corinzi nella loro bramosia disonoravano Dio, perché i processi sembravano non essere stati tanto delle controversie per rimediare a un errore o soddisfare la giustizia, quanto un mezzo di gratificazione personale a spese degli altri credenti. Per questo Paolo ricorda ai Corinzi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, cioè il nostro comportamento attuale pregiudica il futuro. Vi è un'ultima riflessione da fare. Nell'Antico Testamento si trova una legge che, applicata oggi nel suo spirito, risolverebbe alla radice i conflitti esistenti. Alla fine di ogni 7 anni concederai la remissione dei debiti. E questa sarà la forma della remissione. Ogni creditore condonerà ciò che ha dato in prestito al suo prossimo. Non esigerà la restituzione dal suo prossimo e dal suo fratello, perché è stata proclamata la remissione dell'Eterno. Deuteronomio 15, 1 a 2. È inevitabile che in una società vi siano i ricchi e i poveri, vi siano coloro che abbondano e coloro che scarseggiano. Per cui chi si trova nel bisogno chiede a chi può donare. Non solo. A chi ha molto viene richiesto di dare a chi ne ha meno. Gesù stesso disse, chi ha 2 tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Luca 3 e 11. Chi riceve in prestito, quindi, rimane debitore fino a quando non restituisce ciò che ha ricevuto. Se ancora una volta ci caliamo nella realtà della vita quotidiana, immedesimandoci nel debitore-creditore, comprendiamo con quale stato d'animo possano vivere assieme. Il primo con un senso di insufficienza, di indegnità, il secondo con sicurezza, autosufficienza. 2 stati d'animo che, se sono rapportati quotidianamente, creano un conflitto. Sta scritto, il povero parla supplicando, il ricco invece risponde con durezza. Proverbi 18 e 23. Per quanto i figli di Dio amino il loro Salvatore, i loro rapporti sono condizionati dal dare e avere. E finché ciò non viene risolto, rimane questo velo di divisione. Così è per i conflitti fraterni. Chi pensa di aver ragione si sente creditore verso colui che ha torto. Se i figli di Dio avessero l'obiettivo di dare un limite ai loro conflitti, soprattutto per chi è creditore, non vi sarebbero delle separazioni o divisioni per tutta una vita. Se dopo 7 anni si perdonassero quei conflitti irrisolvibili, se decidessero di chiudere definitivamente il passato per riprendere un cammino nuovo, la Chiesa troverebbe al suo interno quella pace che tanto agogna. Lo so che il sole non deve tramontare sul nostro cruccio, Efesini 4 e 26, cioè che dovremmo riposare ogni sera senza avere conti in sospeso con nessuno, ma, poiché abbiamo a che fare con dei figli di Dio dal brutto carattere, la regola di perdonare dopo 7 anni a tutti i debitori, torti morali, finanziari, sarebbe una boccata di aria sana in un ambiente cristiano dove l'aria è irrespirabile per la mancanza dell'accettazione della sovranità di Dio. Può darsi che il tuo prossimo non lo faccia, ma se tu lo fai, ti assicuro che troverai il tuo cammino cristiano molto più facile e leggero. Deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Ebrei 12, 1. A te la scelta. Settembre 2003. Ellero.